Ar-Rahman, il compassionevole. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Ar-Rahman. Il compassionevole. Allama al-Qur'an. Ha insegnato il Corano. Khalaqa al-insan. Ha creato l'uomo. Allamahu al-bayan. E gli ha insegnato ad esprimersi. Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban. Il sole e la luna si muovono secondo calcolo preciso. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. E si prosternano le stelle e gli alberi. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Ha elevato il cielo e ha eretto la bilancia. Alla tatghaw fil-mizan. Affinché non frodiate nella bilancia. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Stabilite il peso con equità e non falsate la bilancia. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. La terra l'ha disposta per le creature. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Vi crescono frutti e palme dalle spate protette. والحب ذو العصف والريحان. E cereali nei loro involucri e piante aromatiche. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Creò l'uomo di argilla risonante come terraglia. E i demoni da fiamma di un fuoco senza fumo. Bikuma tukadhiban. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn. Il Signore dei due orienti e il Signore dei due occidenti. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? مرج البحرين يلتقيان. Ha lasciato liberi mari affinché si incontrassero. بينهما برزخ لا يبغيان. Ma fra loro vi è una barriera che non possono oltrepassare. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Da entrambi si estraggono la perla e il corallo. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. A lui appartengono le navi, alte sul mare come colline. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Kullu man 'alayha fan. Tutto quel che è sulla terra è destinato a perire. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Solo rimarrà il volto del tuo Signore, pieno di maestà e di magnificenza. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Lo invocano tutti quelli che sono nei cieli e sulla terra. È ogni giorno in nuova opera. فبأي آلاء رب ربكما تكذبان؟ Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? سنفرغ لكم أيها الثقلان. Presto ci occuperemo di voi, o due pesi. فبأي آلاء رب ربكما تكذبان؟ Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. O consesso dei demoni e degli uomini, se potrete varcare i limiti dei cieli e della terra, fatelo. Non fuggirete senza un'autorità proveniente da Allah. فبأي آلاء رب ربكما تكذبان؟ Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Sarà inviata contro entrambi fiamma ardente e rame fuso, e non sarete soccorsi. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? فإذا انشق انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Quando si fenderà il cielo e sarà come cuoio rossastro. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. In quel giorno, né gli uomini né i demoni saranno interrogati sui loro peccati. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Gli empi saranno riconosciuti dai loro segni e afferrati per il ciuffo e per i piedi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Sarà detto loro, ecco l'inferno che i colpevoli negavano. يطوفون بينها وبين حميم آن. Vagheranno tra esso e il magma ribollente. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? ولمن خاف مقام رب. Per chi avrà temuto di presentarsi al cospetto del suo Signore, ci saranno due giardini. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Zawata afnan. Di fresche fronde. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukalliban. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Fihima aynani tajriyan. In entrambi sgorgano due fonti. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukalliban. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Fihima min kulli fakihatin zawjan. In entrambi due specie di ogni frutto. Fabi ayyi ala'i rabb. Bikumatukalliban. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. Saranno appoggiati i loro ospiti su divani rivestiti internamente di broccato, e i frutti dei due giardini saranno a portata di mano. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Vi saranno colà quelle dagli sguardi casti, mai toccate da uomini o da demoni. فبأي آلاء رب بِكُمَا تُكَذِّبَانِ. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ. Saranno simili a rubino e corallo. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Qual altro compenso del bene, se non il bene? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. E ci saranno altri due giardini oltre a quelli. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? مدهامتان. Entrambi di un verde scurissimo. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? فيهما عينان نضاختان. In entrambi due sorgenti sgorganti. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. In entrambi frutti, palme e melograni. Fabi ayyi ala'i رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? فيهن khayratun hisan. E fanciulle pie e belle. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Hurum maqsuratun fil khiyam. E fanciulle dei grandi occhi neri, ritirate nelle loro tende. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan. Che nessun uomo o demone mai han toccato. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Muttakina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan. Saranno appoggiati su verdi cuscini e meravigliosi tappeti. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Sia benedetto il nome del tuo Signore, colmo di maestà e di magnificenza.